La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Era stata la TV a lanciare Bebo Storti, un attore comico capace di trascinare tutti in fragorose risate, quando impersonava il conte Uguccione, ad esempio. Eppure, a sentire quest'uomo, la TV stava anche togliendo, oltre che dare, perché c'era una parte di Storti che non riusciva proprio a farsi sentire in televisione, ed era quella dei diritti civili, dei doveri della politica, dell'impegno civile. È stato grazie al teatro che quella svolta, quella prima volta, è arrivata nella vita di questo artista. I presupposti perché questa povertà esista, questa lotta intestina fra periferie bianche, per intenderci, anche se ha un valore relativo, e io credo che i presupposti siano molto economici, bancari e governativi, cioè non viene data le possibilità alle persone che vengono nel nostro paese, come a persone che non hanno i mezzi, di costruire qualcosa di diverso che non sia una vita banale alla costante ricerca di un posto, oppure senza trovare lavoro. Insomma, io credo che le responsabilità vere di questo scontro, oltre all'ignoranza di tante persone che se leggono un libro vanno in coma probabilmente, ma cioè non è solo questo, insomma è facile semplificare, ci sono degli zozzoni di destra che vanno allo stadio e fanno bu quando il ragazzo di colore gioca, è più profondo il disagio e le ragioni sono sempre di chi governa, di chi pagato da noi cittadini, questo non bisogna mai dimenticarlo, governa. Perché dice che le ragioni sono soprattutto di chi governa? Non è un po' un deresponsabilizzare anche chi invece poi compie degli atti singoli di razzismo? No, ma insomma il razzismo, oltre che essere figlio dell'ignoranza, nel nostro paese non ha radici profonde, cioè non, sì c'è campanilismo, c'è questa esasperazione del contrasto fra migranti e italiani, in buona sostanza è figlio di un atteggiamento che però poi si stempera, se pensiamo ai meridionali che venivano a cercare lavoro a Milano-Torino soprattutto, e venivano all'inizio trattati con diffidenza, poi accolti come persone, giustamente come cittadini, e lo stesso dovrebbe essere con i migranti, e potrebbe essere, infatti laddove non ci sono tensioni sociali, c'è il benessere in qualche modo, i migranti sono accolti come persone normalissime. Insomma. Lei è sempre stato in prima linea nella difesa dei diritti, dei più deboli, ma dei diritti in generale. Questa cosa da dove nasce? Cioè lei come educazione familiare, che tipo di educazione ha avuto? Ma in buona sostanza io credo di essere figlio proprio del 68, dell'anarchismo che ho sempre frequentato, dei principi sani che la mia famiglia, soprattutto mia madre, mi ha consegnato, di un certo tipo di tolleranza e di desiderio anche di giustizia, un po' una malattia che mi porto dietro, un po' una disperazione anche che mi porto dietro a vedere questo paese in mano a una banda di zozzoni incapaci che non sono neanche in grado di far stare bene i nostri anziani, i nostri ragazzi nelle periferie, e quindi da lì tensioni sociali, razzismo, cattiva accoglienza del migrante, ne muoiono 10 al giorno, quando non di più purtroppo dalle parti di Lampedusa, della Sicilia, del canale diciamo di Sicilia con provenienza Malta, e ormai è, mentre fino a 5 anni fa ancora si poteva sperare nell'indignazione dei più, oggi solamente le persone che veramente hanno a cuore il bene dell'umanità in genere si occupano di questo di questa cosa, insomma. Questo Quello dell'assenza televisiva di solito è il momento più florido per gli artisti, per gli attori soprattutto. Forse è proprio in quel momento di scomparsa che si deve cercare la prima volta di Bebo Storti, quella presa di coscienza che lo fa crescere come attore sino a toccare le punte meravigliose dello spettacolo Mai Morti, in cui Storti recita la parte di un soldato di Salò che si sfoga in un monologo drammatico. Ma ne un mese di seguito, ancora niente, la si spedisca a Torino, anche lì non scherzano! Altre sono le nostre donne, hanno abbandonato il sacro focolare domestico, la cura dei figli, hanno gettato via il rossetto nel cuore, un solo ideale, al posto dei cappellini curiosi e originali la bustina, fiere dell'uniforme del corpo ausiliario femminile, sfilano a capo eretto dando prova del loro coraggio e della loro fede. Davvero. Ah sì, la staffetta. Ho qui casualmente un documento, la fotocopia dell'originale. Commissione medica per le pensioni di guerra, estratto dal verbale di visita subita dall'ex militare partigiana, nome e cognome eccetera, residente eccetera, figlia di eccetera. Infermità riscontrata, psiconevrosi ansiosa con note depressive in soggetto che ha subito violenza carnale e isteroctomizzato. I medici, le parolone. La prima volta di Bebo Storti inizia lentamente, quando a 13 anni decide di non studiare più e continua per l'intera vita. Senta, le volevo chiedere questa cosa. C'è stato, se lei se lo ricorda, un momento nella sua vita personale o anche artistica che lei ha proprio sentito essere il momento in cui... Lo sliding door? Sì. Credo di sì. Io facevo, dunque, ho 13 anni, ho finito di studiare alle medie e lì mi si prospettava la possibilità, mia madre forse ce l'avrebbe anche fatta con grande sacrificio a mantenermi ad un liceo piuttosto che a una scuola tecnica, e io dentro di me ho pensato che non ne valeva la pena. E ho cominciato a studiare a casa da solo, cioè a leggere tantissimo tutto, fare tesoro delle scienze umanistiche, della conoscenza del mondo e a lavorare. Che lavoro faceva? Un po' di tutto, qualsiasi cosa. Ho fatto di tutto, ho fatto proprio di tutto. E qualsiasi lavoro che veniva, poi non era un lavoro sicuro, io non avevo neanche delle professionalità, delle capacità, non avevo voglia di mettermi lì a fare qualcosa che poi in futuro sarebbe stato il mio lavoro. Avevo le idee molto confuse, ero giovane, avevo 13 anni, comunque ero un bambino, insomma, però mi andava bene, io lavoravo, io mi sentivo molto umanista, avevo letto qualche filosofo greco, qualche storia, mi piaceva l'idea di un bambino che coltivasse la cultura con tutta la umiltà possibile, ma contemporaneamente insieme alla cultura avesse una manualità o comunque una voglia di lavorare. Poi era duro, 13 anni dopo 3 mesi in un posto ti scassi la minchia, ti spezzano le gambe, cioè non è che scaricare scatoloni, o non che io poi fossi un eroe o un Iqbal Masip, cioè ci mancherebbe, però mi è sempre, e quindi lì è stato il mio sliding door. Se io potevo fare una vita ancora dorata, credo, con qualche sacrificio da parte mia e di mia mamma fino ai 18 anni, ho preferito di no. E come ha fatto poi a scegliere il teatro? Cioè, ho fatto la scuola d'arte drammatica, lì a 18 anni, con un minimo di sicurezza economica che nel frattempo in qualche modo era pervenuta e qualche lavoretto che io continuavo comunque a fare facendo la scuola, sono diventato un attore. Poi ho avuto culo, io ho fatto il militare, sono tornato, ho fatto l'ultimo anno di scuola d'arte drammatica e da allora non ho mai smesso di lavorare un giorno. La prima volta. La prima volta. L'uomo più furbo del mondo. Storti nasce a Milano nel 1956. Forte e manesco, sarà un bambino sempre dalla parte dei deboli, così si racconta. Da bambino? ero molto irrequieto, molto veloce nel pensare, nel fare le cose, e non mi andava mai bene un cazzo, e reagivo con grande virulenza, diciamo così, alle ingiustizie già da allora. Cioè, che cosa faceva per reagire con virulenza? Menavo. Se qualcuno mi faceva una prepotenza, vedevo qualcuno fare una prepotenza a uno più debole, ma io non è che sono un eroe, mi sembrava talmente giusto intervenire in difesa di qualche poveretto che veniva vessato da un prepotente o da un'ingiustizia, che io sono sempre stato così. Poi mi piacevano molto giocare a calcio, stare con gli amici, io sono proprio sempre molto molto, come dire, conviviale, di compagnia, insomma, ecco. Non... In che quartiere di Milano? Porta Romana. Porta Romana. Senta, com'era il quartiere di Porta Romana? Bello, molto bello, c'era tanta migrazione, però c'era un gran miscuglio di persone, eravamo tutti insieme, pugliesi, calabresi, lombardi di origine, diciamo. Frequentavamo, io fino ai 12 anni e mezzo, 13, ho frequentato l'ambiente dell'oratorio, una squadra di calcio. Contemporaneamente io facevo atletica, però mi piaceva sempre giocare a calcio, a pallone, ho sempre giocato a calcio, era un po' è stato un po' il legame, devo dire, in quel periodo, fino all'arrivo di CL, di un certo tipo di concezione della religione della funzione dei religiosi nella società. Io mi trovavo bene all'oratorio, avevo amici, c'erano preti in gamba, simpatici, brave persone, no? Si respirava un'area molto proletaria e sana, diciamo, in questi oratori, ecco. Poi dopo ho preso la mia strada, ho abbandonato, sono diventato tendenzialmente di costituzione, insomma, anarcoide, irrequieta. Senta, e come è arrivato al teatro invece? Io ho sempre fatto teatro, anche da ragazzino, proprio con una compagnia del teatro dell'oratorio. Io, pur avendo abbandonato l'oratorio, poi frequentavo molto questa compagnia teatrale, che era diretta da una persona molto molto molto in gamba, che era riuscito a legare queste persone insieme, a fargli fare teatro. Ognuno prendeva poi la sua strada, chi frequentava l'oratorio, chi no, chi andava a messa, chi no. Io credo di non andare a messa, ma non so, credo che se vado a messa, cioè, mi arrestano, se c'è una polizia clericale, entro in una chiesa, mi arrestano adesso. Credo di essere sempre stato un attore, fondamentalmente, non so perché, non so spiegarlo, non so dare una spiegazione. Ce l'era quel classico bambino che anche a casa inscenava? Sì, io passavo ore a giocare, facevo 8 personaggi, se facevo la guerra facevo i buoni, i cattivi, i mediamente buoni, i mediamente cattivi, poi c'era una storia d'amore fra una dei buoni e uno dei cattivi, poi facevo anche il papà di quella dei buoni, che fa delle storie importanti, non le ho mai scritte, purtroppo, ci avrei fatto dei gran film. Ma se le ricorda proprio quelle giornate, quei pomeriggi in cui giocava da solo? Io sono sempre stato un bambino solitario, a parte quando andavo all'oratorio o andavo su un campo di calcio o andavo a far bisboccia con i miei amici in giro per il quartiere, perché c'era un posto dove andavamo a giocare a calcetto, diciamo, in qualche modo, non era proprio un campo, era la parte superiore dell'acquedotto di Porta Romana, che era diventato il nostro campo di calcio, fondamentalmente. Figlio unico, cresce in una famiglia aperta al mondo. La scuola pubblica, l'oratorio, il calcio, il cortile, il campetto all'aperto. Bebo Storti ha tutte le carte in regola per crescere forte e dritto come un fuso. E così sarà. Figlio di grandi lavoratori, farà dell'impegno civile e del lavoro il suo cardine. Mia mamma lavorava, mio papà faceva il cantante lirico e anche altre cose, oltre al cantante lirico, uno che si è sempre arrangiato. Poi i miei si sono separati, sono cresciuto con mia mamma, diciamo dai 5 ai 18, finché non me ne sono andato di casa, sono cresciuto con mia mamma, più o meno. Senza meno. Cioè. Sono anche tornato nei momenti di disperazione economica, fino a che mi sono assestato intorno ai 24-25 anni, sono anche tornato indietro, spesso dalla mamma, perché non avevo il becco d'un quattrino, insomma. Ecco. La mamma è sempre un porto. È un porto che accoglie. Senta, ma sua mamma, quando lei menava, non ho mai saputo niente, sono molto di fuori, anche quando ho cominciato a fare manifestazioni, a frequentare qualche, anche se poco, qualche collettivo anarchico, avere le mie idee, andare a manifestare, no, ma io l'ho sempre tenuto un po' lontana da queste cose. Lei era una donna molto pratica, è una donna molto pratica, è viva a 86 anni, è sempre stata una che ha pensato a lavorare, un po' come me, diciamo, adesso, mio figlio fa delle scelte, ha la sua testa, io ho sposato delle cause, ma penso molto soprattutto a lavorare. Purtroppo non è possibile nel nostro paese per tutti avere questa cultura del lavoro, e sta passando questa immagine orripilante di uomo che non paga le tasse, che deve fregare lo Stato, e se poi fallisce perché è un incapace lo Stato deve intervenire, sennò comincia a piangere, che i magistrati sono tutti pazzi, che io sono onesto, magari non onestissimi. Cioè, sta passando un'idea di italiano che non è mai esistita, fino agli anni 70-80, questa idea di italiano non c'era. Erano persone oneste che lavoravano e si facevano un gran culo in tutta Italia. Io me lo ricordo bene, perché io nel 1970 avevo 14 anni, quindi mi ricordo bene come erano gli adulti grandi, insomma. Sì, in effetti anche io me lo ricordo, insomma, anche negli anni 80, cioè, magari forse già lì si era iniziato a vedere qualcosa, sì, qualcosa, però con le prime casse integrazioni anche vedevi anche proprio il crollo di un sistema. Certo, certo, certo. Gente che gestiva aziende con 10, 20, 30 mila operai e che era incapace di trarre profitto da un'azienda che funzionava, niente Marelli, sì. Erano tutte aziende che funzionavano, gestite evidentemente non da capitani di industria o da gente, ma da degli incapaci, perché sennò, insomma. Adesso ha parlato di suo figlio invece poco fa, quanti anni ha suo figlio? Ne ha 16, gli ha compiuti da poco. Ed è figlio unico anche lui? Sì, anche lui è figlio unico, sì, sì. Devo dire che abbiamo una affinità letterale, politica, idealistica, io e mio figlio, è una persona molto simpatico, fra l'altro, quindi siamo stati fortunati, nel senso che ti può arrivare, è bravo, studia, si impegna, credo che abbia voglia anche di fare delle cose, adesso poi a 16 anni è ancora, diciamo, piccolino, però fra un po' comincerà a voler fare delle cose, ha già le sue idee, insomma. Quali sono state le cose che secondo lei sono state più belle che lei ha fatto per suo figlio? Lo so che è una domanda così. Oh, dargli una sicurezza, la garanzia di una sicurezza di vita, permettergli di non dovere, che poi a volte è educativo, dove fare dei sacrifici. Io sono nato in una famiglia dove non c'era una lira, cioè, prendiamoci chiaro, non è che a casa mia, capito, i soldi uscivano dai cassetti, no, i cassetti erano vuoti. Però io sono fiero del fatto di avergli dato una tranquillità, neanche noi navighiamo nell'oro, siamo milionari nella maniera più assoluta, però io gli do una tranquillità e gli permetto di fare delle scelte che altrimenti non potrebbe fare, magari dovrebbe andare a scuola facendosi un'ora e mezza di treno, perché viviamo in un paese del profondo hinterland, perché tanta gente che lavora e si fa il culo meriterebbe di avere una vita più tranquilla, più serena, ma non può farlo perché, torno a ripetere, io picchio sempre su questo chiodo, sia per quanto riguarda i migranti che per quanto riguarda la vita delle persone. Chi viene votato e prende soldi pubblici e viene pagato dal cittadino ha il dovere di garantire al cittadino una vita ideale, ottimale. Poi ci si può non riuscire per tante contingenze. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, potete riascoltarci in podcast, ci trovate su Facebook, dovete cercare Cristina Carpinelli, oppure potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calmo.